24 mattino. Buongiorno, buongiorno da Giulia Crivelli, bentrovati alla nostra prima trasmissione del mattino, 24 mattino. Cercheremo di commentare con i nostri due ospiti che sono Vincino e che voi ascoltatori conoscete bene e Stefano Esposito, senatore del Partito Democratico. Cercheremo di commentare le notizie di oggi e che poi sono anche di ieri, ma che saranno anche quelle di oggi, cioè la formazione di questo nuovo governo. È stato incaricato Paolo Gentiloni, come tutti sapete, però anche la grande questione del Monte dei Paschi di Siena, che è una delle eredità più scottanti che il governo Renzi lascia al governo Gentiloni. E a Vincino però volevo chiedere intanto buongiorno a entrambi, buon lunedì e buona settimana. E a Vincino volevo chiedere, perché oggi sul Foglio, sapete che il Foglio ha compiuto 20 anni e quindi pubblica sempre numeri di questo ventennio di quotidiano, e oggi è abbastanza incredibile, è un numero del venerdì 4 novembre del 2011 e c'è una tua vignetta, un bel referendum abrogativo del Quirinale. Ecco, volevo chiederti il ruolo che ha avuto, che sappiamo è la prima crisi che il presidente Mattarella deve gestire, la prima crisi di governo, come si è comportato secondo te, come si è mosso e soprattutto come si muoverà, perché appunto Gentiloni ha accettato con riserva, quindi adesso bisognerà vedere. Allora, come si è mosso il Quirinale? Si è mosso in una maniera antica. Il Quirinale, vedi, è l'unica pedina che non hanno mai fatto toccare a Berlusconi. Berlusconi in 20 anni ha sempre avuto Presidente del Consiglio, Presidente della Repubblica contro proprio sempre, e lui e la sua maledizione. Dove si rompe il patto del Nazareno? Si rompe sul Quirinale, perché il Quirinale era nel patto di trovare un Presidente condiviso. Renzi, che fa il ganassa, invece rompe il patto, va al Dio per ricoscire la sua sinistra interna, cosa che peraltro poi non ci riesce naturalmente, no? Come cosa rompe il patto e quindi va tutto al diavolo, tutta la stagione delle riforme, delle cose, va al diavolo. Renzi lo doveva interrompere subito quella stagione là, quella cosa là. E naturalmente il Quirinale fa, come dire, da chi è nominato viene, si produce e produce la cosa che Renzi in questo momento voleva. Ecco qua, come si è mosso? Non lo so, si è mosso che, come dire, io sarei per l'abrogazione di questo Quirinale nominato dal partito di maggioranza attraverso riti e che si muove con riti. Perché ha dovuto parlare con 20 gruppi inesistenti? Sì, questo è stato il primo giorno di consultazioni. Nell'epoca oggi del mondo veloce di oggi, dell'Inter e quell'altro, questa cosa qua, questi riti di vecchia massoneria, mi sembra quasi. Senatore Esposito, lei è d'accordo? O comunque, insomma, certo, si è mosso all'interno di regole che forse andrebbero cambiate, però all'interno di queste regole mi sembra che comunque abbia fatto le cose anche in modo più veloce rispetto ad altre crisi. Cosa pensa? Intanto buongiorno. Buongiorno. Ma io penso, la parte, diciamo, della politica, concordo abbastanza con Vincino sulla rottura del patto del Nazareno sul Quirinale, adesso che sia la maledizione di Berlusconi, naturalmente è un altro paio di maniche, ma sicuramente col senno di poi aver scelto da parte di Renzi l'unità del PD rispetto al patto del Nazareno e quindi al proseguimento delle riforme si è rivelato forse una strategia che non ha pagato. Sul Quirinale io ne difendo naturalmente le prerogative, e figurarsi l'abolizione, non siamo riusciti a cambiare la seconda parte della Costituzione, cioè gli italiani al 60% ci hanno spiegato che non bisogna toccare proprio niente. E lo dico da senatore, diciamo, che certo, aveva messo in ballo la sua anche la propria poltrona. Quindi in realtà non sono convinto che sia un problema di regole, e devo dire Mattarella questa volta ha operato in maniera, come diceva lei, anche molto veloce. Semmai il vero problema è che continuiamo a essere un paese che anche con di fatto il viatico dei cittadini rischia di ricominciare dove si era fermato nel 93, cioè con la prima repubblica proporzionale, 20-25 gruppetti, partiti e partitini. Io non so se questo sia la cosa che serve all'Italia, però dobbiamo anche ammettere che Certo. Gli italiani un po' ci hanno indirizzato, certo, con questo referendum. Sentiamo allora Gentiloni che parla del suo predecessore Renzi e gli dà l'onore delle armi, ecco, potremmo dire così. Dalle consultazioni è emersa la conferma della decisione del presidente Matteo Renzi di non accettare un reincarico, in coerenza con l'impegno che Renzi aveva più volte manifestato nel corso della campagna referendaria. E questa coerenza merita rispetto da parte di tutti. Ecco, purtroppo io il rispetto da parte di tutti non l'ho visto ieri. Poi sentiremo anche Di Maio e anche Di Battista, che ieri sono intervenuti rispettivamente su Rai 3 e sulla 7. Ecco, proprio rispetto direi proprio di no. Voi, Vincino, tu pensi che allora comunque sia stato d'accordo, è vero, aveva anche detto lascio la politica e poi non l'ha fatto e non lo farà, però gli viene rinfacciato forse con una... Ma perché questo è un altro errore politico di Renzi. Allora, secondo me Renzi doveva fare il rincarico, comunque sì, aspetta, due cose diverse. Sì. Renzi doveva fare il rincarico e doveva fare l'umile, doveva dire ai italiani ho sbagliato, scusatemi, nella cosa quell'altra, ora vi porto velocemente alle elezioni, che io ho un piano, una cosa, vabbè. Gentiloni, peraltro, aspetta, secondo me potrebbe essere un ottimo Presidente del Consiglio, perché Gentiloni c'ha una carta in più. Gentiloni per 10 anni e più ha diretto un mensile di Nuova Ecologia, il più importante mensile di ecologia che c'era in Italia. Quindi è un auto che gli altri non hanno mai avuto. Anche perché potrebbe è un tema essere di il estrema... primo presidente ecologico italiano vero, no? Infatti, competente. Se mettesse se come usasse tutta la sua conoscenza e la sua esperienza in questo campo qua. Quindi da una parte prospettavi o un Renzi bis, ma molto con un dichiarazione di intenti molto chiare. Doveva fare questo Renzi così, dovesse fare l'umile, non Renzi, però fa l'offeso. avete sbagliato, mi avete offeso, io faccio l'offeso. No, doveva fare l'umile e accettare quello che era, come doveva fare l'umano, normale, tranquillo. No, ho sbagliato, doveva dire ho sbagliato e stare due giorni a riunire con la sua direzione e capire tutti gli errori che aveva fatto. E invece no, siccome è ancora superbo e va bene. Comunque sia, Gentiloni potrebbe essere una chance se facesse quello che sa fare, l'ecologo. Ecco, sentiamo un attimo ancora Gentiloni, poi chiedo al senatore Esposito se è d'accordo, non credo proprio in tutto con questa interpretazione, ma sentiamo Gentiloni sempre ieri le prime dichiarazioni. È emersa inoltre nelle consultazioni la indisponibilità delle maggiori forze di opposizione a condividere responsabilità in un nuovo governo. Ci muoveremo nel quadro del governo e della maggioranza uscenti. Ecco, senatore Esposito, il tema è un po' questo, che alcuni partiti dell'opposizione hanno detto che non se ne parla di un governo, diciamo così, di larghe intese, di una grossa coalizione alla tedesca. Quindi da una parte volevo chiederle se è d'accordo con l'interpretazione di Vincino, che forse sarebbe stato meglio un Renzi bis, e dall'altra adesso come si procede con questa stessa maggioranza, che forse non sarà proprio la stessa identica. Ma intanto io non sono d'accordo con Vincino per una ragione, perché si può naturalmente non condividere l'atteggiamento e la scelta politica di Renzi di mettere in gioco di fatto la sua leadership politica sul referendum, però è anche vero, Vincino, che Renzi ha fatto una cosa che, seppur D'Alema, quando era Presidente del Consiglio, in qualche modo aveva già fatto, ma in maniera molto forte ha rotto un meccanismo che in Italia è sempre stato molto praticato, cioè si giocano le partite politiche, poi se si perdono si dice vabbè, ma tutto sommato non era importante, no? E quindi si ricomincia come se nulla fosse. Ecco, io personalmente credo che un po' di normalità, tra virgolette, occidentale, e non solo peraltro, per cui in politica se perdi la sedia che occupi e la poltrona che occupi in quel momento la lasci, poi senza escludere naturalmente che, essendo Renzi molto giovane, si potrà ricimentare, essendo comunque segretario di un partito, cioè l'unico partito in Italia che ancora si riunisce, cioè degli organismi dirigenti, che fa i congressi, che non prende le decisioni o nella villa di Arcore, sì, oppure sul blog. No, a Milano in qualche società di cui sappiamo poco, esatto, con un click, ecco, insomma. Però francamente io non, anzi devo dire, gli italiani secondo me sul medio periodo comprenderanno anche che questo rimandarci indietro un po' alla logica in cui ci sono le elezioni e l'unico risultato certo è che nessuno ha perso, non fa bene all'Italia. No, poi certo. Lui probabilmente, c'è il tema dell'umiltà, è stato accusato di essere poco umile, di sicuro non è una persona che fa dell'umiltà la cifra principale, ma è anche vero che se vuoi provare a smuovere un po' le cose, l'eccesso di umiltà rischia di schiacciarti. Certo, Gentiloni è una figura che ha tutto un altro profilo naturalmente, no? Era tra l'altro stato scelto dallo stesso Renzi per fare il ministro degli esteri, quindi con un profilo molto diverso. Che i partiti di opposizione abbiano rifiutato la possibilità per pochi mesi di dare un governo all'Italia che si occupasse delle regole e eventualmente delle emergenze, io me lo aspettavo, è l'ulteriore conferma che questo è un paese nel quale, diciamo, più che l'interesse generale ci si occupa dell'ombelico. Ecco, sentiamo a proposito, ha parlato lei. Ma nessuno lei scusi però, sì. Nessuno ha mai offerto agli altri partiti un governo di niente. Sì. Scusi, hanno offerto, volete prendere, ma no, scusi, questa patata bollente che ho fatto io, no, a cui voi siete stati contrari, ora prendetevi pure i rischi, come dire, oh. Cioè, non ho capito, significa tutta un'altra storia, no, mica quella cosa là, ma solo un pazzo potrebbe avere accettato di condividere solo i fatti Verdini e Alfano. Sentiamo solo un attimo De Luca, perché abbiamo parlato soprattutto per gli standard italiani, di quanto Renzi sia giovane, anche se in politica ormai è da tanti anni, ma sentiamo un attimo De Luca, che mi ha colpito anche perché insomma, non positivamente, per questo attacco quasi da riflesso condizionato, perché appunto uno ha perso e ha fatto un passo indietro e saltano fuori subito delle critiche che fino all'altro ieri non si sarebbero potute immaginare. Sentiamo De Luca. Una delle cose che hanno pesato anche nel referendum era questo sentiment anti-Renzi per alcuni suoi atteggiamenti, no, di strafottenza, avrà modo di correggere anche queste esuberanze giovanili. Ecco, che poi a me viene da dire, De Luca forse dovrebbe correggere le sue esuberanze senili, perché di esagerazioni e di toni sbagliati gliene abbiamo sentiti tanti. Ma senatore Esposito, lei è d'accordo su questo, quello che dice Vincino, cioè che in effetti il governo di larghe intese non è mai stato una possibilità? E poi un po' appunto su questo, non dico volta gabbana, perché sarebbe esagerato nel caso di De Luca, però queste critiche così automatiche che sono subito scattate all'indomani del passo indietro di Renzi. No, ma io Vincino, voglio dire che qui nessuno ha nessuna fesse, come si dice, no? E quindi figuriamoci se il tema è far condividere responsabilità a quelli che hanno legittimamente anche fatto opposizione. Siccome si è parlato però della necessità, e noi abbiamo pagato un prezzo sul referendum, di scrivere la nuova legge elettorale, ci sembrava ragionevole che... Già fa un governo per scrivere una legge elettorale, scusa. Guarda, per carità, cioè, di Dio, non lo so, dimmi tu. In Parlamento sì, in questo paese ci va un governo, perché sennò per fare una legge elettorale ci fa un governo. Madonna, nel momento in cui Vincino, ma noi abbiamo perso il referendum su due temi. Il primo, naturalmente, è tutto politico. Era fatta male, su questo avete preso, perché era fatta male. Oggi chi la rivendica la riforma? Chi la rivendica la riforma? Nessuno. Nessuno dice, ah, che peccato, che bello. Non ti posso manco dare tu la rivendichi, perché pure tu lo sai. Scusami, non mi chiamo né Renzi e non sono neanche la Boschi, per fortuna della Boschi, naturalmente. Io la mia parte me la rivendico, so che non ti potrà soddisfare questa rivendicazione, ma io sono convinto che seppur non c'è, ci possono essere, diciamo, state delle cose che si potevano scrivere meglio, io continuo a pensare che quella riforma fosse una riforma che avrebbe potuto, se approvata, far saltare un tappo di un paese immobile. Su questo vicino credo che possiamo essere d'accordo, se tu sei addirittura teorizzi il superamento del Quirinale, quindi figuriamoci un po', noi siamo stati molto più no, molto meno drastici da questo punto di vista. Fermiamoci un attimo e calmiamo un attimo gli animi, siete su posizioni decisamente diverse su questa riforma. Vincino chiaramente la considera che non è, insomma, bene che non sia passata, mi sembra di capire. Ci fermiamo solo un attimo per il traffico e riprendiamo subito dopo. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta. '24 mattino. Io ho visto Matteo Renzi che diceva: noi non abbiamo paura del voto. Bene, senta, e poi li abbiamo visti quando era il momento di staccare la spina. Sono andati al Quirinale a dire: noi restiamo un altro po'. Siccome abbiamo mezz'ora, io non reggo mezz'ora di frasi fatte. Cerchiamo non di c'è ragionare. Nessuna frase fatta. Cerchiamo di ragionare sul merito. Mi dispiace che lei la, pensi così, ma non solo frasi fatte. Argomenti. Quando le cose cambiano, bisogna un attimo fermarsi e ragionare. Beh. Un po' lo scontro di ieri in mezz'ora con Lucia Annunziata. Intanto ringrazio tutti gli ascoltatori che stanno mandando dei messaggi al 349-238-6666 o SMS o WhatsApp, e mi fa sorridere che alternativamente vengo definita o compagna Crivelli oppure scioccamente furbetta, perché me la sono presa con De Luca. Però insomma, proprio si scatenano reazioni opposte alle stesse parole, e questo mi incuriosisce, mi stupisce, ma non un po' l'Italia, tanto, è giusto l'Italia. Che sia così. E questo di Di Maio, secondo me, è, adesso uno può naturalmente, massimo rispetto per i grillini, secondo il sondaggio di ieri, non gli piace essere chiamati grillini, per gli esponenti del Movimento 5 Stelle e per i loro elettori. Ieri, secondo un sondaggio pubblicato dal Corriere, sono il primo partito, quindi hanno superato il PD, o meglio un sondaggio che conferma un dato che era stato dato da alcuni sondaggi anche prima del referendum. Quindi giustificarmi preventivamente, però davvero massimo rispetto, solo che vedendo, ascoltando ieri Di Maio, un po' l'impressione che a loro volta gli esponenti del Movimento 5 Stelle, come Vincino dice, avrebbe dovuto fare Renzi, non stanno meditando, ma stanno come reagendo con, forse ha ragione Lucia Annunziata, frasi fatte. Lei, senatore Esposito, cosa ne pensa? Ma io da un lato ho trovato molto divertente, se mi posso permettere, il richiamo di Lucia Annunziata a uno dei leader del no referendum, su cui peraltro l'Annunziata si era pronunciata in maniera molto netta, no? E quindi erano a confronto due persone, seppur una grande giornalista indipendente, che aveva espresso legittimamente il suo no al referendum. E che aveva avuto anche uno scontro piuttosto acceso anche con lo stesso Presidente del Consiglio quando era stato suo ospite. E a me è molto piaciuto che lei in una battuta abbia sintetizzato la verità, cioè Di Maio, Di Battista, che sono i due volti del Movimento 5 Stelle che si vedono più spesso, hanno una straordinaria capacità, cioè quello di dire sempre le stesse cose impacchettate all'interno di un claim, come si dice. E io sono tra quelli che vuole le elezioni rapidissimamente, perché io voglio misurare le proposte politiche che questo movimento, che ha un ampio consenso, almeno stando ai sondaggi, tra gli italiani, per il governo, perché sa, poi dalle frasi fatte bisogna passare anche alla concretezza. Certo. Però adesso non mi dedico più al Movimento 5 Stelle, se mi dà 20 secondi su De Luca. Sì. Io devo dire francamente, De Luca è stato uno dei problemi che uno come me, sono l'ultimissimo, ha incontrato facendo la campagna elettorale nel nord Italia. Mm-hmm. Perché ogni volta che apriva bocca durante la campagna referendaria ci faceva danni, non solo dalle sue parti ma anche da noi, no? Tra clientele e fritture di pesce. Lo trovo, sa, più che arrogante, proprio gattopardesco, perché se c'è uno che lo ha difeso è stato Renzi, e non lo ha scaricato, è stato Renzi. E francamente a volte il silenzio potrebbe anche essere una strada praticata, Vincino, in politica. Vincino, tu cosa ne pensi? Perché insomma è stato definito, non parliamo dell'imitazione di Crozza, però insomma De Luca a volte sembra, appunto, non si sa se è il De Luca vero o l'imitazione che ne fa, però, Crozza. Scusi, tu da... Sì? Sì. De Luca, secondo me, perché è l'aspetto, uno degli aspetti del PD nel meridione. Mm-hmm. Perché non è che in Calabria il presidente della Calabria, non è che in Basilicata è tutta un'altra storia, non è che in Sicilia è tutta un'altra cosa. Nel meridione il PD è questo. Nel meridione il PD è, come dire, consenso elettorale raccolto a colpi di frittura. È questa storia qua, per cui come bisogna prenderne atto, non è che quelli dal nord così fanno tutti i snobber, no, la politica solo, è questa in sud. Io mi chiamo Esposito, lo so, che ti chiami Esposito, però hai lavorato sulla tavola a Torino, ma lo so che ti chiami Esposito, io sono di Palermo, no, che vuoi da me? Pensa che uno è anche razzista, no. Hai capito, no? Ma assolutamente non razzista, no, ma io guarda, è una connotazione politica, però, una connotazione insomma, politica. Però non forse è un tentativo di uscire da questa logica del clientelismo, e no, forse io sono ingenuo, che, non è possibile. Dove è questa logica qua? Allora, in un'Italia in cui con una disoccupazione nel sud così pazzesca, no? Ma il clientelismo lo fanno tutti. Cioè, dice migliaia e decine di migliaia di socialmente utili, di praticamente insomma disoccupati sovvenzionati in un modo o nell'altro. No, io prima conoscevo uno che faceva il guardiapalo, che due volte, tre volte alla settimana batteva su dei pali per vedere se erano ancora in piedi o no, e prendeva 1.500 euro perché aveva quattro figli, 1.500 euro al mese. No, per cui quale lavoro gli poteva dare a questo qua? No, certo, no. E allora, e siccome negli anni tutti, in tutte le città del sud, in tutte le regioni, i forestali, 100.000 forestali, non so quanto sono, 30 milioni, quanto è, sono tutte cose così, no, devi gestire questo, la realtà. Io spero sempre insomma che ci sia un miglioramento su questo, perché a dire il vero, i dati sulla disoccupazione giovanile in realtà addirittura peggiorano lo scenario che ha dipinto Vincino. Prima di concludere però volevo cambiare argomento e parlare un attimo del Monte dei Paschi di Siena. Ieri Di Battista, in questo faccia a faccia con Giovanni Minoli sulla 7, ha parlato di tante cose, ma anche del Monte dei Paschi. Sentiamolo un attimo e poi vi chiedo un parere su questo. Io ho visto Matteo Renzi che diceva noi non abbiamo paura del voto, e poi li abbiamo visti quando era il momento di staccare la spina, sono andati al Quirinale a dire noi restiamo un altro po'. Siccome abbiamo mezz'ora, io non reggo mezz'ora di frasi fatte, cerchiamo non di ragionare, c'è nessuna frase fatta, cerchiamo di ragionare sul merito. Mi dispiace che lei la pensi così, ma non sono frasi argomenti. Fatte. Quando le cose cambiano bisogna un attimo fermarsi e ragionare. Beh. Scusate, era di nuovo Di Maio, ma ripetita Juvent forse. Sentiamo adesso Di Battista. Il dottore Renzi aveva detto: se perdo me ne vado e lascio la politica. È tuttora segretario del Partito Democratico ed è lui che ha nominato il suo avatar, ovvero Luigi Gentiloni. E quindi lei nessun riconoscimento? Glielo riconoscerò quando abbandonerà definitivamente la vita politica. Ecco, queste dichiarazioni di Battista, ma soprattutto sulla questione Monte dei Paschi, perché a me fa molto effetto di questi, non so, io li chiamo i rottamati riluttanti, Bersani e D'Alema, addirittura forse Bersani adesso potrebbe candidarsi per la segreteria del PD. Delle responsabilità nella vicenda del Monte dei Paschi di Siena le hanno, e non so, è come se ne fossero dimenticati o amano parlare del fallito referendum, ma non di questa questione. Quindi così volevo un po' capire a questo punto nel PD come si affronterà internamente la questione del Monte dei Paschi, che lo ricordiamo è a parte la banca più antica del mondo, ma soprattutto è la banca forse più in crisi del mondo in questo momento, verrà forse nazionalizzata e non è mai una buona notizia. Ma posso solo dire, fare una piccola considerazione, ma Di Battista, invece di agitarsi tanto sul fatto che Renzi deve lasciare o meno la politica, questo lo lasci decidere agli iscritti, ai militanti del Partito Democratico, se non vogliono più Renzi. Io so, capisco che lui è abituato a prendere ordini da Casaleggio e quindi dalla Casaleggio Associati, quindi se la Casaleggio Associati dice scompari, lui prende la moto e scompare in Sud America, no? Però francamente noi siamo un partito che funziona così, lo chiediamo ai nostri iscritti. Renzi ha perso le elezioni, se è andato via dal governo, certo. Cioè questo meccanismo di Di Battista c'ha dietro diciamo un'idea. Poi gli vorrei ricordare che il primo a dire che avrebbe lasciato la politica se perdeva le elezioni era il suo leader Grillo nel 2014, ce l'abbiamo ancora qui che gira per l'Italia a dire un sacco di fesserie, quindi stia zitto Di Battista e ci risparmi queste morali. Sul Monte dei Paschi di Siena ci abbiamo rimesso praticamente le elezioni del 2013, c'era candidato Bersani, vorrei ricordare a tutti. Quindi avete già pagato un prezzo. Mi pare evidente che Renzi non ha nascosto le responsabilità, che anche quota parte ci ha avuto un largo gruppo dirigente del nostro partito. Abbiamo in campo la soluzione, che è quella di non farla fallire, perché vorrei ricordare che in altre parti del mondo, proprio per far fallire, per non aver salvato una banca, ci siamo trovati in una crisi che ci stiamo trascinando da 8-9 anni. Sinceramente faremo quello che dobbiamo fare con... Senatore Esposito, guardi, mi spiace, ma sono stata io un po' a provocarvi sulla vicenda Monte dei Paschi e mi scuso con Vincino, non posso dargli la parola, perché sennò Peter Bescafè ci taglia completamente. Alla prossima cercherò di rifarmi o toccherà ad Alessandro, insomma, rifarsi. Noi ci lasciamo per il GR, ci ritroviamo subito dopo. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Mattino. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, anche se avete sentito, per noi non è proprio un buongiorno, ma un giorno molto triste. E ringrazio tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi per Alessandro al 349-238-6666, sia SMS che su WhatsApp. Veniamo alle prime pagine dei giornali in questa seconda parte di 24 Mattino. Come potete immaginare, tutti i titoli sono dedicati alla crisi di governo e all'incarico a Gentiloni. Io magari cercherò anche di segnalarvi altre cose, anche perché dopo il GR delle 8 Oscar Giannino parlerà soprattutto di questo con i suoi ospiti Massimo Giannini, giornalista di Repubblica, e Alessandro Sallusti, direttore del giornale. Cominciamo quindi dal Sole 24 Ore, che tradizionalmente in questo periodo pubblica la classifica della qualità della vita. L'avete sentito anche nel GR, la trovate completa in tutte le sue, in tutti i suoi dettagli, dalla pagina 11 alla pagina 21, quindi proprio super dettagliata questa classifica della qualità della vita in Italia. Sul podio, avete sentito, ci sono quest'anno Aosta, Milano e Trento. E questo è quello, trovate sulla prima pagina del Sole 24 Ore, quello che noi definiamo in gergo palchettone, cioè il grande titolo subito sotto la testata. Il titolo principale però è incarico a Gentiloni, oggi la lista dei ministri. Di fianco la notizia su MPS che riapre la conversione dei bond retail per 2 miliardi. Su questo naturalmente vedremo gli aggiornamenti in giornata. Ci sono intanto due commenti che vi segnalo, poi Mauro Meazza magari ci dirà qualcosa di più quando ci colleghiamo con lui tra una ventina di minuti. Vi segnalo anche quindi due commenti su MPS, sono uno di Alessandro Graziani: se JP Morgan lascia l'aumento di MPS a Stato e risparmiatori, perché sapete che JP Morgan è la banca di investimento che ha fatto da consulenza per il piano di salvataggio di MPS, soprattutto per come organizzare l'aumento di capitale. E l'altro commento di Isabella Bufacchi: soluzione di sistema Cercasi per NPL, cioè non performing loans, cioè crediti inesigibili, e ricapitalizzazioni. Sulla crisi di governo due commenti principali, uno di Lina Palmerini: la via di mezzo tra Renzi e il Colle, e l'altro di Guido Gentili: la doppia eredità del premier uscente. Poi c'è l'editoriale del nostro direttore, nostro di Radio 24 e del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano: la stabilità che serve al paese. Il Corriere della Sera: incarico a Gentiloni, sfida sui ministri. E qui innumerevoli scenari, tentativi di spiegazione di come si è arrivati a questa scelta. Per il Corriere della Sera due sono le questioni principali: la divisione sui verdiniani, sapete l'ingresso del partito di Verdini nella maggioranza di governo, e poi il caso delle donne in bilico. E qui si parla di Maria Elena Boschi, ministro per le riforme, del ministro per l'istruzione Giannini, e si vedrà insomma se il rimpasto ci sarà e se riguarderà appunto soprattutto le ministre. La fotonotizia però è dedicata a Go Wenzhang, che è il padre di quella studentessa cinese uccisa a Roma, studiava all'Accademia delle Belle Arti di Roma. È stata travolta da un treno mentre cercava di rincorrere i suoi scippatori, e Rinaldo Frignani ci racconta poi a pagina 20 l'incontro con questo padre, che dice semplicemente: vi prego, ditemi come è morta mia figlia. Il Messaggero: Gentiloni cambia la squadra, quindi il Messaggero dà per certo un rimpasto, se mini o non mini vedremo, e molte delle voci che girano, l'avete sentito anche nel GR, che per esempio Angelino Alfano, attuale ministro degli interni, potrebbe prendere il posto di Gentiloni agli esteri, e al posto di Angelino Alfano potrebbe arrivare Marco Minniti, quindi una new entry nel governo. La Repubblica: nasce il governo Gentiloni. Anche qui tantissime analisi di Stefano Folli, di Ilvo Diamanti, e poi in prima pagina anche la questione del Monte Paschi. Ecco la strategia del Tesoro, ancora una settimana per l'aumento, quindi un po' in barba a quello che potrebbe essere il no della Banca Centrale Europea, che lo ricordiamo per ora è solo un'indiscrezione, non è ancora un no ufficiale sancito da un documento, da una lettera della Banca Centrale Europea, il no al concedere più tempo al Monte Paschi per realizzare questo aumento di capitale. Potrebbe invece essere proprio così, cioè che si tenti comunque l'aumento di capitale e non la nazionalizzazione, per semplificare. Poi l'avevamo visto ieri, la Repubblica annunciava questa inchiesta fatta insieme ad altri tre giornali europei sul Front National di Marine Le Pen, e sapete che Marine Le Pen si candiderà alle prossime presidenziali per appunto diventare il presidente della Francia. Nel quartier generale della Le Pen l'Eliseo non è impossibile, quindi si parte appunto per questo viaggio nel Front National, si parte dal quartier generale della campagna elettorale. La fotonotizia però è dedicata all'ennesimo attentato che c'è stato ieri al Cairo, un attentato che ha colpito una cattedrale copta, dei cristiani copti, e poi la Repubblica abbina questa notizia anche al fatto, lo avevamo già visto nei giorni scorsi, l'ISIS ha riconquistato Palmira, inutili i bombardamenti russi. E poi un articolo che magari, se ci sarà tempo, leggeremo tra qualche dopo, è di Marco Belpoliti, che parte da un dato effettivamente abbastanza impressionante. Il titolo dell'articolo è «Se nel bel paese il libro è ancora sconosciuto», vi leggo le prime righe, «in 13 milioni di italiani senza neppure una libreria. Il 21% degli italiani che risiede nei 687 comuni con una popolazione superiore ai 10.000 abitanti non può acquistare le novità di narrativa né i saggi e neppure libri per bambini». Quindi forse a volte appunto si dice che gli italiani leggono poco, ma forse bisognerebbe prima di tutto avere delle librerie, una rete di librerie più capillari, anche se poi naturalmente c'è il problema che le piccole librerie devono combattere con le grandi catene o con il fatto che nella GDO i libri vengono venduti con uno sconto del 15%, a volte anche del 20%. La Stampa, Gentiloni parte nel segno di Renzi, il riferimento è alla frase sul fatto che la maggioranza è la stessa di prima. Anche qui tantissimi articoli e retroscena. La fotonotizia però è dedicata al derby di Torino, che come sapete è stato vinto dalla Juventus, doppio Higuain, il derby è della Juve. Libero, aiuto, due punti, è proprio lui, la foto è quella di Paolo Gentiloni, secondo le previsioni di Libero durerà almeno un anno. Vi segnalo anche sulla vicenda MPS invece un articolo di Gianluigi Paragone che si intitola «Se ci sono i soldi per MPS, perché non per le imprese?», quindi un po' così aprire la discussione su come vengono usati i fondi statali. In questo caso, se ci sarà un salvataggio da parte dello Stato, sarà un salvataggio nell'ordine dei miliardi, e quindi Paragone si chiede se per l'ennesima volta è la giusta destinazione di soldi pubblici. Vi segnalo, inizia in prima pagina, ma sono addirittura due pagine all'interno di Libero, una lunga intervista a Daria Bignardi, direttore di Rai 3, che insomma si esprime su tutto, sia sulle novità che lei ha introdotto, anche sui fallimenti di alcuni programmi, per esempio Politics, che ha sostituito Ballarò, e anche sulla non è chiaro quando esattamente sia stata concessa questa intervista. Comunque naturalmente parla anche della situazione politica italiana attuale. Il giornale, governo teleguidato, e il titolo è Gentil Renzi, quindi un po' il riferimento, anche forse il collegamento alle dichiarazioni del Movimento 5 Stelle, che ha definito Gentiloni l'avatar di Renzi. La fotonotizia però è dedicata a Maria Elena Boschi, sorridente, ma Paolo Bracalini titola il suo articolo «La Boschi è un caso umano, non vuole lasciare la poltrona». Se infatti ad alcuni sembrerebbe abbastanza naturale che l'autrice della riforma costituzionale bocciata dal 60% degli italiani lasci la sua poltrona, in realtà pare che magari con un altro ministero però resti nel prossimo governo. Il Fatto Quotidiano, il governo Genticloni, quindi anche qui un gioco di parole per dire che Gentiloni, secondo il Fatto Quotidiano, è nella è un governo di fatto in continuità con quello di Matteo Renzi. Il giorno Gentiloni governo sprint. E poi a proposito di vecchie liturgie di cui abbiamo parlato anche nella prima parte di 24 mattino, fotonotizia di Matteo Renzi, ieri all'uscita dalla messa a cui è andato insieme alla sua famiglia è tornata la Prima Repubblica. Ora però ci fermiamo un attimo per una breve pausa, ci ritroviamo subito dopo. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, bentornati alla nostra rassegna stampa dei quotidiani, grazie davvero a tutti gli ascoltatori, ma sono sicura che Alessandro avrà modo di ringraziarvi personalmente per i messaggi che state mandando al 349-238-6666, commoventi davvero, come naturalmente noi oggi siamo qui in questa giornata triste e con i sentimenti e con le emozioni che potete immaginare. Ma veniamo alle pagine interne dei giornali. E dal Corriere della Sera vi segnalo un approfondimento di Giuseppe Sarcina, corrispondente in questo caso da New York, che parla di questo scontro tra Donald Trump e la CIA, perché sapete che la CIA, i servizi segreti americani hanno nei giorni scorsi detto che ci potrebbero essere state veramente delle interferenze russe nella campagna elettorale per le presidenziali americane, e perché la Russia avrebbe cercato in qualche modo di influenzarle per far vincere Trump. Trump ha detto che ha subito risposto che è una assurdità, e da qui uno scontro, quello che appunto Sarcina definisce uno scontro totale. Trovate tutto a pagina 13 del Corriere. A pagina 15 invece Beppe Severgnini ci racconta di questo premio che si chiama World Mayor Prize, cioè il premio al sindaco migliore del mondo, che è assegnato ogni due anni, è stato istituito nel 2004 e quest'anno hanno vinto i primi cittadini di Danzica, Atene e Mechelen, che è una città delle Fiandre in Belgio. Beppe Severgnini ha trovato giustamente interessante questa classifica, è andato a vedere che cosa fanno questi tre sindaci per essersi appunto meritati questo podio, e quindi parlano i primi cittadini e le loro ricette vincenti su integrazione e lotta al populismo. A proposito di come sono le differenze anche all'interno di uno stesso paese, in questo caso l'Italia, su come si affrontano le questioni, ho trovato molto interessante l'approfondimento a pagina 21 del Corriere di Giuseppe Guastella, intitolato I viaggi della speranza giudiziaria per avere cause di lavoro più veloci. Sapevamo già dei viaggi della speranza per curarsi, soprattutto dal sud al nord Italia. In questo caso invece dipendenti e aziende, se possono, scelgono Milano, dove il processo in media termina in 5 mesi, mentre in altre città possono durare molto di più. La durata media delle cause di lavoro a Milano è appunto di 144 giorni, quindi circa 5 mesi, ma la media italiana è quasi 10 volte tanto, 1.007 giorni. Un approfondimento invece a cura di Ilvo Diamanti, che parte sempre da alcuni dati statistici sulle pagine di Repubblica 12 e 13, la solitudine dei trentenni. Delusi e arrabbiati, ecco perché i giovani hanno votato no, perché sapete che una dei dati più interessanti, più da analizzare sul voto referendario, è quello che riguarda le generazioni, perché la generazione tra i 25 e i 34 anni, mentre la media nazionale è stata 40 per il sì, 60 per il no, in questa fascia d'età 25-34, 28% per il sì, 72% per il no. Questo appunto il commento che parte dai dati di Ilvo Diamanti. Un aggiornamento sul terremoto, perché si è detto per fortuna che una delle priorità del governo Gentiloni sarà naturalmente di occuparsi della ricostruzione nelle zone terremotate del centro Italia, e ieri intanto c'è stata un'altra scossa. Macerata trema, scosse in serie, torna la paura, e lo ricorda la Repubblica pagina 20. La più forte delle scosse di ieri è stata del 4,3 della scala Richter, registrata alle 14, e Avisso, un paese vicino a Macerata, è crollata una parte del teatro cittadino, quindi le scosse continuano a procurare danni. A proposito di disuguaglianze e anche della crisi dei giovani e della disoccupazione giovanile, pagina 11 della Stampa, un viaggio che sarà di 4 puntate, fatto da Linda Laura Sabadini, che tra l'altro è intervenuta proprio, sentita stamattina presto in replica, domenica alla trasmissione di Maria Latella, che ci racconta appunto l'Italia delle disuguaglianze. La prima puntata: con la crisi non basta più il lavoro di uno solo in famiglia. Il modello del padre che mantiene moglie e figli non è sostenibile. Dal 2005 al 2015 triplicata l'incidenza di povertà assoluta tra gli operai. Sempre dalla Stampa, un articolo su, visto che abbiamo parlato del terremoto, un articolo di Alberto Simoni, che è inviato della Stampa a Tokyo, ha incontrato Arata Isozaki, che è una delle cosiddette archistar, cioè un architetto star, uno dei più grandi architetti al mondo, e che, come tantissimi architetti, stanno osservando e magari cercando di dare dei consigli per la ricostruzione. Tra l'altro il Giappone, lo sappiamo, è un paese che sa molto bene cosa sono i terremoti e anche delle tecniche molto avanzate di costruzioni antisismiche. Isozaki dice: appiccicate il nuovo alle rovine, così rinascerà Norcia. Quindi questo è un po' il suo suggerimento. E per quanto riguarda in generale la sua attività, ho detto no ai cinesi, grattacieli che mi chiedono vanno bene solo per gli investimenti, ma quando l'economia rallenta diventano una città fantasma. Vi dicevo l'intervista di Pietro Senaldi a Daria Bignardi, la trovate alle pagine 10 e 11 di Libero. Come vi dicevo, parla un po' di tutto, e anche dei colleghi, di Fazio, di tante trasmissioni che sta cercando di fare, anche delle sue interviste passate, con sicuramente molta sincerità, ammettendo anche alcuni errori fatti. Molto interessante l'approfondimento di Angelo Allegri alle pagine 21, 22 e 23 del Giornale, una vera e propria inchiesta intitolata "Caccia ai killer dell'economia italiana", no? Si dice sempre che questo è uno dei tanti, gli oppositori del governo Renzi dicono che ha fallito nel rilanciare l'economia. Noi siamo nell'Unione Europea, quelli messi peggio se escludiamo la Grecia, e però Angelo Allegri sul Giornale spiega: non ce la facciamo a uscire dalla crisi, uno dei colpevoli è nascosto e pericoloso, l'incapacità di lavorare come una volta, quindi la questione della produttività. Ma ora ci colleghiamo con Mauro Meazza, che è al telefono e tra l'altro reduce, credo, da una maratona di ieri, perché il nostro giornale è rimasto, ha fatto uno sforzo aggiuntivo per aggiornare sulle due grandi questioni, la crisi di governo e il Monte dei Paschi di Siena, e poi conciliare il tutto con appunto la tradizionale classifica sulla qualità della vita, che abbiamo visto occupa più di 10 pagine sul Sole di oggi. Buongiorno Mauro. Buongiorno Giulio. Beh, c'è anche gente che, come dire, si alza prima per molto meno, mi verrebbe da dire. Quindi no, ti ringrazio, sì, effettivamente è un numero molto ricco di cose, naturalmente la politica, naturalmente le questioni del Monte Paschi e la qualità della vita, ma anche molte altre cose, perché come ogni lunedì l'esperto risponde, e naturalmente anche le pagine che sono dedicate alla legge di bilancio e ai bonus sulla casa. Io però è lunedì, anche se è un lunedì un po' diverso per quello che hai detto, per quello che hai ricordato, allora anche abbracciando Alessandro e così volendo mantenere una sorta di tradizione che proprio con Alessandro abbiamo inaugurato, io adesso andrei a leggere i tradizionali endecasillabi del lunedì con il tuo permesso, ma certo, devo dire anche senza, se la cosa non ti dice. Forse tu aspetti che ora ti declami quella tradizionale graduatoria che Italia tutta segue per li rami e a una provincia assegna la vittoria, pesando e ripesando case e asili, le coppie, i risparmi e i brevetti, al fin che da quei molti campanili si vedano li premiati e li negletti. Eppur non ti darò neanche un indizio, e non perché quel dirtelo mi costa, ma verseggiando mi godrò lo sfizio di questa rima che ti faccio apposta, per farti indovinare la vincente e rimandarti poi nello speciale che abbiamo voluto sì magniloquente, nel raccontar l'Italia in bene e in male. E sappi, cara Giulia, non è orpello il molto altro che sul sol già lesse, chi si svegliò per tempo e trovò bello che si prestò attenzione a MPS. Altro non ti vuol dire, se non che aspetto e che fu auguri come da pronostico per la partita che è in zona scudetto e faccia gli scongiuri in mezzo al traffico. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno inclusi nel prezzo. Vi presenta... Mattino. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, bentrovati a quest'ultima parte della rassegna e ancora grazie a tutti gli ascoltatori che stanno mandando dei messaggi. La magia della radio è che appunto a volte persone come Alessandro, che da tanto tempo conducono una trasmissione, sembrano proprio degli amici, dei familiari alle persone che si sintonizzano tutti i giorni, e questi messaggi lo confermano chiaramente. Un grande affetto, una grande vicinanza nei momenti difficili, nei momenti di lutto. Ma dicevamo delle pagine interne dei quotidiani, vi segnalo un'inchiesta del Fatto Quotidiano. Abbiamo appena parlato di qualità della vita e abbiamo detto che in cima alla classifica delle città ci sono Aosta, Milano e Trento, e invece all'ultimo posto ancora una volta una realtà del Mezzogiorno, Vibo Valentia e Reggio Calabria. Pesano disoccupazione, redditi e migrazione. Perché ricito questa classifica? Perché il Fatto Quotidiano ha questa inchiesta che comincia in prima pagina e poi continua alle pagine 8 e 9. L'Andrangheta parla romano. Andrea Palladino appunto ha fatto questa inchiesta e per farci capire come l'Andrangheta, che è l'organizzazione criminale appunto calabrese, si stia impadronendo, si sia in parte già impadronita della capitale. Armi, omicidi e cocaina. Ora l'Andrangheta parla romano. Due inchieste dei PM di Roma davanti ai giudici di Velletri denunciano la gravità della situazione, ma le risorse sono poche e tutto resta immobile. Sul litorale, tra Nettuno e Anzio, dagli anni 60 alcune famiglie calabresi hanno salito i gradini del potere e comandano come i grandi. E c'è anche una mappa che anche ci cerca di spiegarci come funzionano, come è divisa, come il Lazio sia diviso nelle diverse zone per lo spaccio. Dal Giorno vi segnalo il ricordo, non ho visto molto sugli altri giornali. Oggi sono passati esattamente 47 anni dalla strage di Piazza Fontana del 1969. In realtà una delle tante stragi su cui non si è ancora fatto chiarezza. Scoppiò una bomba, lo ricorderete, all'interno della Banca Nazionale dell'Agricoltura. Strage, la firma c'è, ma non i nomi. Come vi dicevo, appunto, a distanza di così tanti anni non si hanno ancora delle certezze. Vi segnalo dalle pagine interne invece del Corriere della Sera una bella storia raccontata da Michele Farina. È la storia della ciclista di Baghdad. Si chiama Marina Jaber, ha 25 anni, è una pittrice e ha rotto questo tabù, che tale è a Baghdad, che non solo nella sua città vieta l'uso delle biciclette alle donne, trovando uno stuolo di seguaci sui social e per strada. Quindi a volte appunto le piccole grandi rivoluzioni o i cambiamenti nella società vengono innescati anche da quelli che apparentemente sono piccoli gesti, ma che poi si trasformano in qualcosa di più, anche forse in questa epoca dei social network, grazie al passaparola, diciamo, digitale, che può scattare. Dal supplemento macro del Messaggero della cultura, una storia che prende spunto da un libro. Il titolo dell'articolo è La Nouvelle Cuisine di Caterina, e la chef Michela Bottasso racconta come dalla corte dei Medici, Caterina dei Medici, la futura regina portò a Marsiglia una serie di ricette che ora sono considerate francesi, dalla zuppa di cipolle, che in effetti anch'io pensavo fosse una specialità prettamente francese, allo stiracchio. E poi c'è un fotomontaggio in cui si vede un ritratto di Caterina dei Medici con due attrezzi da cucina in mano, e tra l'altro Michela Bottasso è appunto una delle forse poche chef donna, è la chef del ristorante Biagio Pignatta della tenuta di Artimino, è appunto una chef famosa che quindi si è incuriosita da questa storia di Caterina de Medici. Abbiamo detto ieri, abbiamo segnalato dai giornali di ieri la vittoria di Gianfranco Rosi, il regista di Fuoco a Mare, quel documentario sull'immigrazione, in particolare su come la sta gestendo, la deve gestire Lampedusa. sia per quanto riguarda i suoi abitanti che per tutte le persone, soprattutto la guardia costiera che sono in mare per cercare di salvare quanti più immigrati possibili. Ieri appunto abbiamo dato notizia di questa vittoria, tra l'altro il documentario Fuoco a Mare è anche candidato nella categoria dei documentari agli Oscar. E ora questo, il regista, intervistato da Gloria Satta sul Messaggero, dice: il mio prossimo film sarà fuori dall'Italia, è un nuovo progetto e tra l'altro tra le tante cose che ricorderete, tra l'altro Gianfranco Rosi aveva già vinto un Leone d'Oro a Venezia nel 2013 per un altro suo lungometraggio documentario, Il Sacro Gra, dove Gra sta naturalmente per Grande Raccordo Anulare. Gli chiede Gloria Satta: è contento di questa, di tutti questi riconoscimenti per Fuoco a Mare? Certo, Fuoco a Mare è stato venduto in 64 paesi e il 13 gennaio uscirà in Giappone, dove Sacro Gra è ancora nelle sale. Il cinema non cambia il mondo, ma spero che il mio film contribuisca ad aumentare la consapevolezza di un dramma che il mondo intero sta vivendo. Dicevamo dei viaggi della speranza giudiziari e avevo citato che spesso invece in passato avevo sentito parlare di viaggi della speranza medici. Ecco, La Repubblica, pagina 23, con Michele Bocci, ci racconta i tour organizzati per comprare in India i farmaci anti-epatite C. Sono tra i più cari, tra i farmaci più cari, oltre in generale insieme anche ad altri farmaci antitumorali. Non sempre vengono passati dal sistema sanitario nazionale. Pensate che il prezzo di partenza di un ciclo di cura in Italia è di 40.000 euro e ogni paziente deve fare 12 settimane di terapia. Da qui appunto questi viaggi della speranza. Costano 2.000 euro più il volo e già 1.000 italiani quest'anno hanno scelto l'estero per avere una terapia scontata. Il generico del Sovaldi, per esempio, che è questo farmaco, questo è il nome commerciale del farmaco, di cui esiste l'equivalente generico, è reperibile a Delhi o in Egitto a un costo molto inferiore. E questa via del punto andare fino in India per comprare questo farmaco a prezzi molto inferiori a quelli che vengono praticati in Italia è una via suggerita persino da alcuni medici, vista la lunghezza delle liste d'attesa nelle ASL. Sempre dalle pagine interne di Repubblica un'altra intervista, questa volta a John Grisham, di cui è appena uscito il nuovo libro, si chiama L'informatore per Mondadori, e lo spunto è il libro, però in realtà Antonello Guerrera chiede a John Grisham, che è sicuramente uno degli autori americani che ha più venduto, è un ex avvocato che poi si è dedicato a questo genere letterario, ma poi non solo, dei legal thriller, e parla di tutto. John Grisham, che viene definito appunto il re dei legal thriller, Donald Trump, le bugie in rete, la giustizia americana. Legge e verità sono la difesa contro la paura. A proposito di medicina e di difficoltà e di nuovi problemi sul tavolo, nuove soluzioni, avevamo già trovato questa notizia nelle settimane scorse su altri giornali, ora La Stampa la racconta in profondità, Alessandro Mondo, la nuova frontiera dei trapianti, donatori di organi a 90 anni. Sapete che l'età è in generale un fattore decisivo nel considerare un donatore giusto o sbagliato per appunto un trapianto, e le tecniche mediche, ci spiega Alessandro Mondo, consentono di rigenerare fegati, reni e persino polmoni. Dal supplemento Tutto Soldi, che ogni lunedì è in edicola con La Stampa, all'interno della Stampa, vi segnalo una storia che è stata raccontata, ma forse un po' troppo brevemente, persa un po' nelle cronache bancarie nei giorni scorsi, ed è quella della vendita di questa fabbrica di biciclette, potremmo dire biciclette di lusso, ma sono soprattutto biciclette con un altissimo contenuto di tecnologia. Si chiama Pinarello, è un'azienda veneta, e ne ha acquistato la maggioranza un fondo di private equity controllato dal colosso del lusso LVMH. E in questa intervista Fausto Pinarello, amministratore delegato della Cicli Pinarello SPA, dice: vendo a Witton, che è un po' una semplificazione, il marchio di punta di LVMH è appunto Witton, così Pinarello potrà crescere all'estero. Un approfondimento di Libero invece sull'e-commerce, sul grande tema dell'e-commerce, con un'intervista di Tobia De Stefano a Jack Ma, che è il fondatore e presidente di Alibaba Group, che è forse il più grande sito di e-commerce, è cinese ma è il più grande al mondo. e ci spiega Alibaba le tre F d'Italia, cioè food, cibo, fashion, moda e furniture, mobili, le tre F d'Italia che fanno impazzire 450 milioni di cinesi. E poi un articolo bellissimo, secondo me, sul giornale, di Gianluca Grossi, la geometria della neve che nessuno sa decifrare. Bastano infatti piccolissime variazioni di temperatura e umidità per cambiare il disegno di un fiocco, e ognuno è diverso, non è una leggenda, è proprio così. Ogni fiocco di neve è diverso dall'altro. Tra l'altro sapete che alcuni paesi che la neve la conoscono molto bene, come la Finlandia o la Danimarca e il nord della Danimarca con il suo popolo degli Inuit, hanno tantissimi nomi per la neve perché cercano comunque di creare delle grandi classi di neve, anche se naturalmente se ogni fiocco è diverso dall'altro non ci potranno essere nomi per ciascun fiocco. Ultimissima segnalazione, la copertina del Foglio di oggi, un reportage bellissimo di Annalena Benini, il governo delle nostre vite, ha fatto un viaggio insieme alle badanti venute dall'est mentre tornano nei loro paesi, soprattutto in Moldavia, e ci racconta i sogni, le difficoltà e anche i desideri di queste persone diventate fondamentali per molte famiglie italiane. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora una buona giornata da Giulia Crivelli.